Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Le interviste. Buon lunedì di Pasquetta da Sebastiano Barisoni, per voi in ascolto. Puntata speciale di Focus Economia. Oggi il programma infatti non è in diretta. Perché? Perché le borse sono chiuse, come sempre lunedì di Pasquetta il programma non c'è, ma abbiamo deciso comunque di mantenere lo spazio e di riascoltare, per chi se le fosse perse, diciamo così, alcuni degli interventi e degli approfondimenti principali della settimana scorsa, a partire anche e soprattutto da quello che è successo a livello governativo, ma anche su vicende che riguardano più l'economia reale e la finanza. Allora, partiamo da lunedì scorso, quando il governo ha comunicato le nomine, anzi erano arrivate alcune discrezioni nel fine settimana. Lunedì è arrivata la notizia definitiva, le nomine di chi guiderà le principali aziende partecipate del Tesoro, che nel caso di Eni ed Enel sono, e anche Finmeccanica, sono tra i principali gruppi italiani. Eni è il numero uno. Allora, all'Eni, Claudio De Scalzi, direttore generale della divisione esplorazione e produzione, sostituisce Paolo Scaroni nel ruolo di amministratore delegato. Emma Arcegaglia è il nuovo presidente del Cane a Sei Zampe al posto di Giuseppe Recchi. All'Enel, Francesco Starace, ex amministratore delegato di Enel Green Power, diventa amministratore delegato, mentre Patrizia Grieco è il nuovo presidente. Per quanto riguarda Finmeccanica, dalle Ferrovie dello Stato è arrivato invece Mauro Moretti, che prende il posto di Alessandro Pansa come amministratore delegato, mentre Gianni De Gennaro è confermato presidente. Alle Poste arrivano Francesco Caio come amministratore delegato e Luigi Tudini come presidente. Abbiamo commentato queste nomine con l'editorialista del Sole 24 Ore, Guido Gentili. Torna a occuparsi in qualche modo di trasporti. Moretti resta a occuparsi di trasporti. Sì. Torna, sembra che avesse fatto altro. Dimmi. Moretti ha fatto bene, secondo me, nelle ferrovie, nel senso che sappiamo che le ferrovie hanno un ammalato cronico dell'economia italiana, e quindi dal 2006, quando è entrato, ha portato da una situazione deficitaria molto pesante, ha riportato questa azienda all'utile e ha avuto anche un successo per quanto riguarda l'alta velocità sicuramente. Detto questo, ovviamente la sfida in Finmeccanica è di tutt'altro peso, anche per diciamo il valore geostrategico che ha questa azienda che si occupa di difesa sostanzialmente, ed è un'azienda che compete in tutto il mondo, sui mercati di tutto il mondo, al contrario diciamo delle ferrovie, che compete sì diciamo in Italia, è comunque un'azienda pubblica non quotata ancora in borsa, quindi è una situazione completamente diversa. E lui ha fama di essere un manager molto duro e quindi la Finmeccanica ha anche diciamo problemi da un punto di vista di un certo riassetto anche della governance, e quindi da questo punto di vista vedremo quali risultati porterà a casa. Passiamo all'Enel e quindi a Francesco Starace. Qui ci avviciniamo poi alla scelta di De Scalzi. Mi sembra che il governo su Enel ed Eni abbia voluto anche, tra virgolette, rassicurare i mercati, dare un segnale di continuità più che di discontinuità. A questo certamente. Si trattava di bilanciare dei nomi nuovi, volti nuovi, ma al contempo bisognava assicurare la continuità per quanto riguarda il giudizio dei mercati. Mi pare che abbia prevalso questa logica, quindi sono stati inseriti nelle posizioni di vertice operativo delle aziende due manager di primissima linea, già con le gestioni Scaroni e Conti, e che sono già molto conosciuti e si sono dimostrati da questo punto di vista capaci. Quindi in questo senso diciamo non è stata una rivoluzione totale, è stata una rivoluzione diciamo molto bilanciata tra discontinuità e continuità. Allora, volete che dia, l'abbiamo data nel GR 24, la stavo per dare nel giorno in cui Emma Marcegaglia, ex presidente Confindustria, diventa presidente dell'Eni. Il gruppo Marcegaglia ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Milano della Build Tech e ha proposto ai 169 addetti di trasferirsi nella sede industriale di Pozzolo Formigaro, penso Formigaro, in provincia di Alessandria. I sindacati non ci stanno, mentre il gruppo sostiene che il trasferimento entro la fine dell'anno degli impianti del personale punta a salvare la produzione e l'occupazione. Veniamo, diciamo, al ruolo del, di De Scalzi. De Scalzi era da sempre, insomma, è da sempre in Eni, ma soprattutto già svolgeva il compito delicatissimo in Eni del numero 2. Sì, veramente era il braccio destro dell'amministratore delegato Paolo Peroni ed era a capo del settore esplorazioni e produzione. Che è uno dei settori strategici in cui è impegnato l'ENI e che è strategici non solo per il presente ma soprattutto per il futuro. E quindi da questo punto di vista non è una sorpresa e anzi è stata secondo me una scelta opportuna da questo punto di vista, perché assicura quella continuità che altrimenti per un'azienda ad altissima sensibilità come la più grande impresa multinazionale italiana sui mercati, beh, ci sarebbero stati, diciamo, dei contraccolpi molto negativi. Eh sì, anche perché l'ENI, lo diciamo spesso, oltre che essere il primo gruppo italiano e avere progetti a medio e lungo termine, non è che il petrolio lo riesca a estrarre dalla mattina alla sera, fa anche politica estera e quindi, attenzione, si scontra anche con i colossi, si scontra in maniera, diciamo, legittima nella concorrenza con i colossi petroliferi di altri paesi che non è che abbiano proprio le buone maniere tutti. Per cui, cioè, se no, perché ogni tanto quando sento certi ragionamenti da demi-vierge, da mezza vergine, mi irrito. Se devi stare su certi mercati e hai certi concorrenti che si chiamano le grandi sorelle americane del petrolio, Elf francese, Shell, Royal Dutch Shell, insomma non è che si giochi proprio di fioretto in quei casi, eh? Beh, insomma, poi dico, lo dice la storia stessa dell'ENI, a cominciare da Enrico Mattei, quindi è una storia che diciamo si intreccia con le questioni italiane, ma con la politica estera e con la politica di sicurezza. La politica di sicurezza, anche lì, alcune mezze vergini, ma l'ENI, i servizi e l'intelligence. Ragazzi, quando si tocca il tema del petrolio e dell'approvvigionamento energetico, è ovvio che un paese ha il diritto, anzi al dovere, di tutelarsi con tutte le sue strutture, anche quelle di intelligence e informative. Ma che stiamo scherzando? O volete che il petrolio e l'approvvigionamento di gas lo facciamo gestire così, senza guardare a chi te lo vende e ai giochi che arrivano dietro? Vabbè, non voglio andare oltre su questo, però c'è una nota del Quirinale su cui vorrei chiudere, Guido, perché il Quirinale oggi ha detto che sono tutte fantasie, anzi ricostruzioni fantasiose della stampa, le pressioni, gli interventi attribuiti al Presidente della Repubblica. Nel frattempo il Financial Times dice che Renzi ha posto un ampio cambio della guardia ed è un importante test nel processo di riforme, e il Wall Street Journal è sulla stessa linea, è tra i primi test per la sua promessa di cambiamento. Vorrei a questo punto anche il tuo commento complessivo. È un cambio di stagione ed era un test importante per il governo, perché questo è un atto di governo secco, semplice, quindi si può giudicare senza aspettare dei decreti di attuazione, ed è un test per i mercati, quindi sono importanti anche le valutazioni dei giornali internazionali di cui tu hai riferito. Mi pare di poter dire che ci sono ovviamente delle zone d'ombra, nel senso che nella pioggia di nomine che c'è stata sotto il livello un po' di manuale Cencelli c'è stato sui consigli di amministrazione, dai. C'è stata la mano politica, c'è stata, e certe calibrature diciamo che rispondono alle appartenenze più o meno politiche o personali ci sono state, quindi su questo non bisogna illudersi. È una partita complessa che poteva prevedere anche qualche scivolone da questo punto di vista, accanto peraltro a delle nomine ottime che ci sono state anche a quei livelli lì, perché ce ne sono alcune che sono molto buone. Detto questo, mi pare che si sia stato trovato un equilibrio tra l'esigenza di dare un cambio di stagione e quello, diciamo, di dare un segnale di continuità per quelle aziende che comunque hanno dimostrato di stare bene sui mercati, e quindi questo equilibrio in qualche modo è stato raggiunto. È stato raggiunto e rispettato. Questa è la valutazione quindi delle terroriste del Sole 24 Ore, Guido Gentili. Adesso altre vicende della settimana scorsa e della settimana che comunque si è appena chiusa. Il Monte dei Paschi di Siena. Proprio venerdì il Consiglio di Amministrazione ha dato via libera all'aumento di capitale da 5 miliardi. Come già anticipato in esclusiva dal Sole 24 Ore, l'aumento di capitale quindi non sarà più di 3 miliardi, come inizialmente stimato un anno fa, ma di 5 miliardi. Deliberato all'unanimità, è un aumento importante perché vale due volte il capitale del Monte dei Paschi. E su questo si era espressa anche la Commissione Europea, che aveva chiesto di alzare l'aumento di capitale. Ricorderete, lo scorso settembre fu chiesto di portarlo da 1 a 2 miliardi e mezzo, poi diventati 3 e adesso diventati 5. La Commissione Europea aveva anche chiesto alla banca di rimborsare entro la fine dell'anno almeno il 75% dei 4 miliardi di aiuti ricevuti dallo Stato. Il motivo di questo aumento ben più cospicuo e corposo del previsto ce l'ha spiegato lo stesso amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, Fabrizio Viola, ma ce l'ha illustrato anche il collega che aveva per primo ottenuto la notizia, il collega del Sole 24 Ore, Marco Ferrando. Oggi in Consiglio di Amministrazione la decisione è passata all'unanimità, dentro un Consiglio di Amministrazione in cui quattro consiglieri sono espressione diretta della Fondazione. Quindi di fatto, se la Fondazione avesse voluto far trapelare un po' di malumori rispetto a questa decisione, almeno uno, diciamo, di quei quattro consiglieri avrebbe potuto alzare la mano e dire: signori, non sono d'accordo. Non è avvenuto, quindi appunto sembra che questa serenità possa tradursi anche in un via libera poi in assemblea, come dicevi, il 20 di maggio. Lì però sarà interessante capire quanta quota di questo aumento di capitale la Fondazione sottoscriverà. Faccio capire a tutti: se tu aumenti il capitale, è chiaro che la tua percentuale precedente all'aumento viene diluita. Se io avevo il 10% del capitale, poniamo, e il capitale viene raddoppiato, la mia quota, se non partecipo all'aumento, scende al 5%. Allora è chiaro che se la Fondazione non partecipa, il suo capitale viene diluito e anche di tanto, perché 5 miliardi è pari al doppio dell'attuale capitalizzazione, quindi è il 200%. Allora vorrei capire, la Fondazione, da quello che tu hai avuto modo di comprendere, parteciperà interamente, cioè vuole fare in modo che la sua quota resti al 3,5%, o è disponibile ad accettare anche una diluzione di questa quota? Ma diciamo che la situazione evidentemente rimane fluida, quindi tutto è possibile. Quello che sembra di capire è che la disponibilità, i soldi ci sono per sottoscrivere, e vale la pena di ricordare che fino a qualche settimana fa non ci sarebbero stati. Quindi dalla diluizione, dalla vendita di un grosso pacchetto, la Fondazione ha incassato più di mezzo miliardo, quindi ha i soldi per sottoscrivere, che la pro quota sarebbe circa 125 milioni. L'impressione è che sottoscriva e che con la Fondazione anche i suoi due compagni di viaggio, che sono BTG Pactual e Fintech, che sono i due soci con cui ha fatto un patto parasociale che di fatto mobilita il 9% del capitale. Quindi la sensazione è che, cioè, la Fondazione manterrà anche dopo l'aumento di capitale questa quota in Monte dei Paschi, quindi il 3,5%. La sensazione è questa, anche se Sebastiano, rispetto al passato, probabilmente, oltre a vedere che cosa farà la Fondazione, sarà molto interessante capire chi sottoscriverà il resto. 5 miliardi, come ricordavi, è circa il doppio dell'attuale capitalizzazione, c'è spazio per tutti. Resta con noi Marco Ferrando. A mio avviso la domanda è anche come mai, adesso sembra retorica, ma da 3 miliardi si passa a 5 miliardi. Penso che la persona più adatta per rispondere a questa domanda sia lo stesso amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, Fabrizio Viola, che ci ha raggiunto in collegamento. Buonasera, dottor Viola. Buonasera. Vedo un ascoltatore che fa un messaggio: hashtag Fondazione Stai Serena. È spiacciato perché dice, appunto, le fonti interne siamo sereni, e io ricordo l'hashtag Enrico Letta, Enrico stai sereno, non gli portò molto bene. Ma al di là della battuta, essendo dottor Viola, intanto perché da 3 miliardi, come il Sole aveva anticipato, lo stesso Marco Ferrando, a 5 miliardi? Allora, per capire il perché bisogna ricordare che l'aumento di capitale di 3 miliardi era stato deciso l'anno scorso, nell'estate, nel corso della fase di negoziazione del piano di ristrutturazione con la Commissione Europea, e aveva la finalità unica di consentire un rimborso almeno del 70% del prestito che era stato erogato dallo Stato alla banca. Chiaramente poi, passando i mesi e entrando in una fase come quella che stiamo vivendo, caratterizzata dalla Unione Bancaria Europea, dall'esercizio AQR stress test che sono appena iniziati, la banca ha deciso di alzare il capitale per avere una riserva patrimoniale adeguata e che la mette in linea ai ratio patrimoniali delle altre banche per fare questo esercizio con un'adeguata, diciamo, tranquillità, tra virgolette. Sappiamo tutti che questo esercizio, attraverso questo esercizio si faranno delle verifiche sugli attivi finanziari delle banche, anche usando regole diverse rispetto a quelle che sono state utilizzate fino adesso. L'11 di marzo è stato pubblicato dalla Banca Centrale Europea un manuale che detta le regole di classificazione dei crediti e degli accantonamenti. Proprio per, diciamo, gestire questo esercizio, la banca ha deciso di avere una riserva patrimoniale più alta. Quindi, se ben capisco, traducendo o sintetizzando, ci sono i 3 miliardi erano stati indicati un anno fa, adesso con gli stress test che sono, diciamo, il test preparatorio per l'unione bancaria, cerco di semplificare un po' anche in maniera forse imprecisa, voi avete bisogno di mettere più soldi da parte, di avere degli accantonamenti più alti, anche per capire poi come verranno valutate alcune partecipazioni da questi stress test, e visto che dovevate fare l'aumento di capitale, tanto vale farlo a 5 miliardi che vi mette più al riparo. Tenga presente che tra novembre e marzo la media dei ratio patrimoniali delle banche italiane è aumentata tra aumenti di capitale, rivalutazione delle quote Banca Italia e altri diciamo, interventi di oltre un punto percentuale. Quindi, voglio dire, questo adeguamento verso l'alto del ratio patrimoniale non è un qualcosa che riguarda solo Monte Paschi, ma riguarda tutto il sistema bancario italiano. Vabbè, su questo non ci sono dubbi. Senta però, dottor Viola, da questo punto di vista, voi siete sereni, adesso al di là della battuta hashtag sei sereno, però siete sereni sul fatto che chiedere quasi il doppio, diciamo, al mercato non vi creerà problemi? Cioè, voi ritenete che questi 5 miliardi verranno facilmente sottoscritti? Allora, noi abbiamo un consorzio di garanzia composto da 10 banche che ci garantiscono il 100% della sottoscrizione. Evidentemente il successo dell'operazione deriva dalla effettiva sottoscrizione delle azioni da parte di investitori. Quello che posso dirle, ancorché non abbia evidentemente la certezza l'avrò alla fine dell'operazione, che l'interesse da parte di investitori, soprattutto esteri, nei confronti del sistema bancario italiano, in particolare il Monte Paschi, è nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, molto alto. Quindi, su questo voi avete un consorzio, lo spiego a tutti, di garanzia per quelle 10 banche che si sono impegnate comunque a sottoscrivere l'aumento di capitale. Però poi immagino che, tra virgolette, farebbe piacere anche a voi avere il maggior numero di sottoscrittori anche nel mondo, dal mondo privato. La finestra temporale, lei mi conferma che è quella tra giugno e luglio? Allora, noi andremo in assemblea il 20 di maggio e sulla base di una prima stima di calendario dovremo lanciare l'operazione a metà giugno e concluderla a metà luglio. Un'ultima domanda, poi c'è una domanda che vuole fare anche Marco Ferrando, però dottor Viola, molti ascoltatori mi chiedono al 349-238-6666, questo aumento di capitale vi servirà per ripagare anche i Tremonti bond, che sono 4 miliardi, ma faccio notare che a voi costano cari, perché alcuni scrivono che lo Stato vi ha salvato, nel senso che vi ha permesso di avere questi 4 miliardi di prestito, però li pagate cari, perché se non ricordo male il rendimento è al 7,5%. No, 9,5%. 9,5% è salito. Ok, 9,5%, e quindi voglio dire, non è così conveniente, cioè vi ha permesso di non morire, ma non è così conveniente tenerli. Con questo aumento di capitale voi ripagherete anche parte? Allora, noi il piano è ripagare in primis i primi 3 miliardi, dopodiché aspetteremo la fine dello stress test dell'AQR, che avverrà, i cui esiti conosceremo alla fine di ottobre, dopodiché in funzione dei risultati ovviamente decideremo da farsi. Il piano oggi in vigore prevede che i restanti miliardo grosso modo vengano rimborsati nell'arco di piano, però è chiaro che se il risultato dell'esercizio dovesse essere positivo, migliore delle aspettative, potremmo anche anticiparlo, però questo è un qualcosa che oggi non siamo in grado di stimare. Allora, ancora una domanda da parte di Marco Ferrando, poi vorrei fargliene una finale io. Marco. Sì, buonasera. Buonasera. Lei stesso, dottor Viola, diceva l'interesse alto da parte dei fondi, quindi le chiederei se è legittimo aspettarsi che alla fine dell'aumento la geografia dei soci sia molto diversa rispetto a oggi, compreso il ruolo della fondazione insieme ai suoi compagni di viaggio. Quindi le quote attuali, secondo lei, una volta fatto l'aumento di capitale, di quanto e come potrebbero cambiare? Guardi, per quanto riguarda la fondazione e i nuovi azionisti che hanno sottoscritto il patto, ovviamente non sono in grado di rispondere, attendiamo l'assemblea, quello che posso dire, ma non è esaustivo rispetto alla sua domanda, che oggi il Consiglio di amministrazione ha approvato all'unanimità l'operazione. Dopodiché, per quanto riguarda la composizione del capitale totale, c'è da rilevare che negli ultimi mesi c'è stato un rimescolamento sostanziale del capitale, perché basta vedere i volumi di transazione giornalieri negli ultimi 3 mesi, adesso non ho con me le cifre, ma sicuramente è girato molto più di una volta il capitale, quindi abbiamo una base azionaria direi decisamente diversa rispetto a qualche mese fa. La percezione che ho la raccolgo evidentemente parlando con gli investitori istituzionali, cosa che facciamo sistematicamente, e dalla quale ripeto, ho percepito questo interesse, però torno a dire, è un interesse che va collocato anche in un interesse più generale del sistema paese. Basta vedere quello che è successo anche nelle altre banche, dove ci sono stati ingressi importanti da parte di importanti investitori istituzionali esteri. Allora, dottor Viola, nel salutare e ringraziare, io un'ultima domanda ce l'ho, che non riguarda strettamente l'aumento di capitale, riguarda la Fondazione Monte dei Paschi. Allora, non è un mistero per nessuno che lei e il presidente Profumo eravate abbastanza, per essere eufemistici, contrari allo slittamento nei tempi per che la Fondazione, guidata da Antonella Mansi, aveva chiesto per trovare compratori. A questo punto ha avuto ragione la Mansi, nel senso che con il tempo che state, lei i compratori li ha trovati, le quote le ha cedute. Beh, mi sembra che il risultato sia sotto gli occhi di tutti, come ho avuto modo di dire in un'altra occasione, è stata brava, ma mi lasci dire anche un po' fortunata. Poi dopodiché la fortuna non è un difetto, e quindi personalmente sono felice del fatto che la Fondazione ha ottenuto questo risultato. Adesso la pausa per la pubblicità e poi di nuovo gli elementi principali di questa settimana economico-finanziaria. Focus Economia. Le interviste. Di nuovo con Sebastiano Barisoni per questa puntata speciale di Focus Economia. Adesso occupiamoci del boom di richieste arrivate per l'emissione del BTP Italia. Cos'è? È il titolo di Stato del Tesoro destinato anche al retail, quindi ai risparmiatori comuni, con scadenza 2020. È in realtà l'ultimo caso di un fenomeno che ha visto nelle ultime 2 settimane una continua richiesta di titoli di Stato italiani, che ha portato i rendimenti, nel caso del BOT a un anno e anche del BTP a 3 anni, ai minimi storici. BTP a 3 anni ha un rendimento dello 0,93%, il BOT a un anno dello 0,58% annuo lordo. E come sempre una buona notizia per l'Italia, perché vuol dire che ci costa meno trovare compratori per il nostro debito. Risparmieremo 9 miliardi quest'anno e forse 15 se continuerà questo andamento, questo spread, nel 2015. Abbiamo chiesto il perché di tutta questa voglia di comprare debito italiano all'ex ministro dell'economia Domenico Siniscalco, che attualmente è vicepresidente di Morgan Stanley. Il tema è anzi molto strutturale, non riguarda soltanto il debito pubblico, i bond emessi dal Tesoro, ma anche quelli emessi dal privato, che stanno andando in Italia ugualmente bene. Non riguarda soltanto l'Italia, ma tutti i paesi della periferia europea, Spagna, Portogallo, persino la Grecia la settimana scorsa è riuscita a emettere il primo bond dopo la crisi. Quindi c'è una corsa verso questi titoli. Come mai? Perché molti investitori, direi quasi tutti gli investitori internazionali, erano scappati dal debito della periferia italiana, dal debito europeo. Vi ricordate lo spread del 570 contro il Bund? Erano ancora sottopesati

in Canada e si assicura, nel caso di Averna, il secondo amaro più venduto in Italia. E tra l'altro uno dei liquori più venduti italiani, più venduti all'estero. Ne abbiamo parlato direttamente con l'amministratore delegato di Campari, Bob Kunz-Koncevitz. Noi abbiamo dichiarato da mo che vorremmo generare la metà della nostra crescita tramite una crescita organica e l'altra metà tramite acquisizioni. Se uno va a vedere la media, negli ultimi 10-15 anni quel 50-50 è consistente. Quello che abbiamo fatto anche negli ultimi anni, abbiamo costruito la nostra rete di distribuzione internazionale. Infatti oggi abbiamo 17 consociate nel mondo, che vuol dire che riusciamo da un lato a concentrarsi di più nella costruzione dei marchi, ma poi quando andiamo a fare delle acquisizioni riusciamo a captare una parte maggiore, diciamo, della catena di valore. Ecco, qual è la logica che vi porta ad acquisire il leader dei distillati in Canada e il secondo amaro in Italia? Forty Creek in primis ci permette di stabilire dall'anno prossimo la nostra struttura commerciale in Canada, ci darà la massa critica per fare quello. E poi in seconda battuta i whisky canadesi sono una categoria molto grossa negli Stati Uniti che cresce molto bene, e lì pensiamo a poter prendere le quote di mercato. Per quello che riguarda l'Averna, crediamo moltissimo nel potenziale internazionale di questo marchio iconico, da iniziare nel breve nei mercati dove è già presente, ma dove pensiamo che integrandola nella nostra distributiva in Germania, Austria, Svizzera, potremmo a migliorare il passo, e poi nel medio e lungo termine le Americhe, soprattutto iniziando con gli Stati Uniti, dove c'è un fortissimo interesse da parte dei mixologist per delle specialità italiane, i bitter, gli amari e gli aperitivi. Infatti noi ci stabiliremo attraverso questa acquisizione come il fornitore numero uno con il portafoglio più completo attraverso le categorie di specialità italiane. Allora, per quello che riguarda invece i vostri conti, voi avete chiuso il 2013 con 1,5 miliardi di fatturato, 1,520 milioni per la precisione, più 1,7%, e l'utile netto a 150 milioni di euro, meno 4%, però lì era penalizzato da oneri non ricorrenti, cioè avete speso 10 milioni per ristrutturare la parte organizzativa in Italia e in Giamaica. 8 centesimi di dividendo per azione, però le vendite in Italia, che sono per voi il 25% di tutte le vendite, sono calate di quasi il 4%. Allora, che cosa, quali dati avete adesso? Perché chiaramente voi operate in un settore dei consumi, non consumi di prima necessità, tranne che per alcuni casi sono patologici, ma comunque avete il termometro dell'andamento dei consumi. Continuano a calare le vendite in Italia nei primi mesi dell'anno? Ma bisogna anzitutto chiarire la performance in Italia nel 2013, perché i nostri consumi sono andati molto meglio delle nostre vendite, perché con l'introduzione dell'articolo 62 c'è stato un destoccaggio importante nel mercato. La seconda cosa bisogna dire che comunque noi negli ultimi sei mesi del 2013 siamo cresciuti di un 10% in Italia. Dunque il trend si è invertito già dalla seconda metà dell'anno scorso. Ma in questo momento, diciamo, cosa registrate dal punto di vista delle vendite, quindi anche dei consumi? Ma in questo momento purtroppo non posso commentare molto perché siamo in periodo di blackout e presenteremo i nostri risultati il 13 di maggio. Attenendomi a quello che ho detto quando abbiamo presentato i nostri risultati del 2013, siamo un filino più ottimistici in Italia per quest'anno. Ah, più ottimistici. Senta, avete in mente altre acquisizioni a breve? Già due acquisizioni negli ultimi due mesi. Penso che faremo una piccola pausa e dovremo consolidarle prima di continuare con il nostro destino internazionale. E di tutti i marchi che avete, qual è quello che vi sta dando il maggior successo e qual è, o quali sono quelli su cui c'è ancora margine per crescere, diciamo così? Ma noi crediamo fortissimo che nei nostri Big Six, che sono i nostri marchi principali, Campari, Aperol, Sky Vodka, Wild Turkey, Appleton e Cinzano, che tutte queste marche abbiano ancora ampio spazio per crescere. Bisogna soltanto pensare che ognuno di questi marchi fattura, fa un 70-75% del loro fatturato in 3 o 4 mercati. Questo vuol dire che chiaramente c'è del potenziale per farli crescere. Poi on top abbiamo dei marchi iconici come Frangelico, Espolon, che stanno andando moltissimo, e vorremmo concentrarci chiaramente sulle nuove acquisizioni. Adesso ci fermiamo per gli aggiornamenti sul traffico. Focus Economia. Le interviste. E siamo all'ultima parte delle notizie principali per come le ha coperte Focus Economia. Concludiamo parlando di aeroporti, fermo restando che poi nel corso della settimana vi è stato il giallo tra la lettera di Etihad, ossia la compagnia di Abu Dhabi, che vorrebbe o dovrebbe rilevare il 50% dell'Italia pagandolo 500 milioni. Sembra che abbia posto richieste più stringenti, è arrivata poi la conferma dal ministro Lupi che all'Italia aveva risposto a questa lettera. Però uno dei temi che hanno fatto più discutere del piano chiesto da Etihad dall'Italia è il ruolo di Malpensa. Perché? Perché Malpensa verrebbe destinata soprattutto ai cargo, a parte una rotta nuova Malpensa-Shanghai. Etihad avrebbe intenzione di usare Linate come hub, come smistamento del traffico aereo, e poi Roma come hub invece per tutti i voli provenienti anche attraverso Etihad anche dall'Asia e dagli Emirati, destinazione America, intesa come Nord America e Sud America. Maroni, molto seccato dalla decisione, ha chiesto che Malpensa non venga distrutta e ha detto: attenzione, potremmo bloccare l'interesse per rilevare le quote della SEA, la società di gestione degli aeroporti di Milano. E ha risposto ai nostri microfoni anche al sindaco di Milano Pisapia, che ha detto: se Maroni vuole sfilarsi, ne prenderemo atto. Innanzitutto la regione non è dentro SEA, quindi io non mi sfilo da nulla perché non siamo proprio azionisti di SEA. Ho dato la mia disponibilità su richiesta a rilevare quote di SEA, in particolare dal Comune di Milano, perché sono interessato a contribuire a realizzare un sistema degli aeroporti lombardo. Visto il piano degli aeroporti che il governo si accinge ad approvare, che vede appunto Malpensa come perno di tutto il nord-ovest, e vista la vicenda Montichiari con il TAR che ha annullato la concessione a Verona, c'è la possibilità, io dico, di realizzare un progetto strategico. Io sono interessato come regione, però se il governo danneggia Malpensa perché con questa operazione rischia di addirittura di chiudere, e io non sono interessato a rilevare quote di una società SEA che verrebbe fortemente penalizzata anche sul piano patrimoniale da una scellerata decisione del governo. Non capisco perché devo entrare e prendermi in carico responsabilità e perdite che determina qualcun altro. Non sono interessato. Ecco, ho capito, lei dice: insomma, io entro nella società SEA se ha ancora gli attuali asset come valore, se riducete il peso di Malpensa, lei dice addirittura distrutta, adesso arriviamo su questo, non mi interessa più entrare. Però mi faccia, come sempre in questi casi, difendere la controparte, e cioè qui c'è un problema di Alitalia che ha appena avuto un aumento di capitale ma continua a perdere tanto, e bisogna assolutamente trovare un socio per l'Italia, e questo è un elemento di interesse nazionale. Da quello che noi abbiamo visto, fermo restando modifiche, l'Italia sotto partecipazione di Etihad, non, più che sacrificare Malpensa, vorrebbe utilizzare per Malpensa soprattutto la parte cargo, mettere anche il volo su Shanghai e ripotenziare Linate. Allora uno potrebbe dire: siccome la SEA controlla sia Malpensa che Linate, magari la partecipazione di Alitalia su Malpensa si ridurrà un po', verrà modificata, però aumenta quella su Linate, quindi l'asset complessivo non viene depauperato, non viene sminuito.